Disaffiliazione vuol dire che è stata fatta richiesta da un numero sufficiente di soci, perché qui stiamo parlando di regole delle associazioni, no? Noi Arcidiocesi Bologna siamo un'associazione, di disaffiliarsi dalla Associazione Arcilesbica Nazionale. Questo perché? Perché Arcilesbica Nazionale è un'associazione alla quale sono collegate le varie realtà territoriali, no? Le varie associazioni territoriali di Arcilesbica. Quindi ogni associazione è indipendente a sé, è un'associazione. Nella maggioranza, nella grande maggioranza, il nostro circolo è sempre stato orientato diversamente dalle posizioni che man mano nel tempo, soprattutto negli ultimi 2 anni, prendeva la Segreteria Nazionale, che quindi diciamo la segreteria che fa capo Arcilesbica Nazionale, e tanto che abbiamo partecipato allo scorso congresso di dicembre contribuendo a costruire in maniera molto consistente il documento che poi però non ha avuto la maggioranza. Ora, lasciando perdere come è andato il congresso, il regolamento del congresso non ci interessa più, il direttivo Arcilesbica Bologna ha tenuto da dopo il congresso una posizione, e da me molto diciamo sostenuta, di grande equilibrio, cercando di capire come procedere, perché nonostante appunto l'orientamento molto diverso, noi qui a Bologna comunque siamo un circolo grande, importante, siamo il circolo più grande d'Italia e abbiamo diversi progetti in corso, e quindi c'era anche da capire come, insomma, come lavorare, come cercare di continuare, cioè di avere una continuità con il circolo, le sue attività, i suoi progetti, quello che vogliono le socie del circolo, perché l'associazione e il circolo è fatta dalle socie, non dalle dirigenti ovviamente. E quindi diciamo che sono passati alcuni mesi da quando si è svolto e concluso il congresso. A questo punto però, ragionando e parlando e discutendo e soprattutto con diciamo la grande volontà delle socie, quindi una cosa che è partita veramente molto dal basso, c'è stata questa richiesta. Questo vuol dire che noi rimaniamo l'associazione che eravamo e che siamo, ma ci stacchiamo da Arcilesbica Nazionale, quindi proseguiamo cercando di capire in maniera autonoma, ovviamente anche rimanendo in collegamento con tutte le altre realtà associative, anche di Arcilesbica, anche di altre lesbiche, di altre associazioni, dove andare, proseguendo la nostra storia in questo modo. Quali sono i punti principali che non condividete delle politiche, delle posizioni del nazionale? Allora, tutto è partito soprattutto con il grande scontro che si è svolto attorno al tema della GPA, GPA gestazione per altri. Non è che il circolo di Arcilesbica Bologna, nella sua maggioranza delle socie, pensa che sia giusto liberalizzare la gestazione per altri e per altre. È che ci sono posizionamenti diversi, ma soprattutto non si è mai stati d'accordo su una posizione, diciamo, unica, rigida e monolitica di bando universale della gestazione per altri e per altre. E il discorso non è semplicemente basato sulla, diciamo, necessità di autodeterminazione delle donne, ma anche sulla convinzione di due cose fondamentali. Uno, che l'argomento gestazioni per altri, per altre, non sia un tema che riguarda in maniera profonda e importante noi lesbiche. E due, che comunque questo è un tema sul quale non si può avere una posizione unica e monolitica che detti, diciamo così, la linea dell'associazione. Quindi diciamo che ha contribuito moltissimo anche la modalità in cui si è svolta la cosa, cioè come è stato iniziato il dibattito, diciamo, come Arcilesbica Nazionale, alcune segretarie nazionali hanno portato il dibattito entrando a gamba tesa proprio con questo tema in maniera rigida, fino a che insomma non hanno portato l'associazione poi a un congresso, diciamo, anticipato, straordinario. Ecco. L'iter per staccarvi da Arcilesbica Nazionale come sarà? Allora, l'iter è un iter burocratico, perché essendo noi delle associazioni abbiamo uno statuto. In questo statuto ovviamente ci sono alcune righe dove c'è proprio scritto che noi siamo anche affiliate ad Arcilesbica Nazionale. Quindi praticamente noi dovremmo fare un'assemblea in cui, oltre a continuare magari a confrontarci, ma diciamo che siamo arrivati a questa conclusione anche perché la maggioranza delle socie ci chiede di fare questo, dovremo proprio cambiare lo statuto. Quindi sarà questa assemblea che si svolgerà il 23 marzo, solo per le socie ovviamente che sono iscritte al 2018, sarà un'assemblea dove noi dovremo votare dei cambiamenti dello statuto, e senza più dover continuamente confrontarsi, a questo punto scontrarci e riuscire magari ad essere una minoranza e quindi andare avanti e fare le nostre cose, perché noi comunque abbiamo tantissimi progetti in corso, abbiamo costruito negli anni anni, tantissime relazioni con altri gruppi, singole, associazioni, collettivi, partecipiamo alla rete Non Una di Meno, abbiamo delle ottime relazioni almeno fino ad oggi con le istituzioni, in particolare con l'assessorato alle pari opportunità del Comune di Bologna, ma anche con la Regione. Abbiamo vinto un bando regionale proprio sul nostro progetto per lavorare sulla violenza di genere, la violenza all'interno delle relazioni lesbiche, quindi diciamo che abbiamo molte cose da fare. Pensi che qualcuna a livello nazionale cercherà di impedirvi questo processo? A livello burocratico, legale, non è possibile, perché è un processo assolutamente previsto dal codice civile. A livello invece politico, sicuramente una frattura si è già creata, è anche abbastanza grande, e non lo so, vedremo. Per adesso c'è un silenzio assordante.